Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Delorier si considerava talmente di casa che parecchie volte si portò dietro a pranzo anche Senecal. Quella disinvoltura diede fastidio a Federico, che gli prestava del denaro e l'aveva persino fatto rivestire dal suo sarto. Le sue vecchie redingote l'avvocato le aveva passate al socialista, i cui mezzi di sostentamento non erano noti. Avrebbe voluto lui rendersi utile a Rosanette. Un giorno gli aveva fatto vedere 12 azioni della Compagnia del Caolino, la famosa impresa che aveva fatto condannare Arnoux al pagamento di 30.000 franchi. «Ma è magnifico», disse l'avvocato, «è una cosa che puzza di marcio lontano un miglio». Si poteva citarlo per il pagamento dei suoi debiti. Prima di tutto si sarebbe provato che Arnoux era tenuto a pagare tutte le passività della compagnia, dato che aveva fatto passare come debiti della persona giuridica dei debiti personali, poi che aveva distratto parecchie attività sociali. Il che lo rende imputabile di bancarotta fraudolenta, articoli 586 e 587 del codice di commercio. Stavolta lo teniamo in pugno, piccola mia, ci faccia conto. Rosanette gli era saltata al collo. Il giorno dopo Delorier sarebbe partito per Nogent. In caso d'urgenza Senecal gli avrebbe scritto. Le trattative per l'acquisto di uno studio erano un pretesto. Delorier passava il suo tempo in casa di Rock, dove aveva esordito facendo gli elogi dell'amico, non solo, ma imitando il più possibile il suo modo di fare e il suo linguaggio, cosa che gli aveva valso la fiducia di Luisa. Quella del padre se la guadagnava scagliandosi contro le Dru Rollin. Se Federico non tornava era perché s'era messo a frequentare il bel mondo, e a poco saltò fuori che era innamorato, che aveva un bambino e che manteneva una ragazza. La disperazione di Luisa fu immensa, l'indignazione della signora Moreau non meno violenta. Vedeva già suo figlio impigliato sul fondo di uno squallido abisso. Il suo culto delle convenienze era ferito e ciò che provava era una specie di disonore personale, quando all'improvviso il suo atteggiamento cambiò. A chi le chiedeva di Federico rispondeva con un'aria di leggero sarcasmo: «Sta bene, benissimo». Aveva saputo del matrimonio con la signora d'Ambreuse. La data era già decisa e Federico stava pensando come far digerire la cosa a Rosanette. Verso metà autunno la marescialla aveva vinto la causa per le azioni del Caolino. Federico lo seppe da Senecal, che era stato all'udienza e veniva a dare l'annuncio. Arnoux era stato riconosciuto corresponsabile di tutte le frodi e Senecal aveva una tale aria di soddisfazione che Federico gli impedì di proseguire, assicurandogli che avrebbe fatto lui la commissione a Rosanette. Entrando in casa aveva un'espressione irritata. «Sarai contenta adesso». Ma Rosanette, senza far caso alle sue parole, «guardalo». E gli mostrò il bambino adagiato in una culla vicino al fuoco. Quel mattino era stata dalla balia e l'aveva trovato così male che aveva deciso di portarlo con sé a Parigi. Era dimagrito straordinariamente in ogni parte del corpo e le sue labbra erano coperte di puntini bianchi, come se avesse avuto all'interno della bocca del latte coagulato. «Cosa ha detto il dottore?» Il dottore sostiene che il viaggio gli ha aumentato il... non mi ricordo, una cosa che finisce in ite. Insomma, dice che ha il mughetto. Tu sai che cos'è?» Federico rispose senza esitazione, certo, e aggiunse che era una cosa da niente. Alla sera, però, si spaventò vedendo l'aspetto debole del bambino e il progredire di quelle macchie biancastre simili a una muffa. Sembrava che la vita, ritirandosi ormai da quel povero corpicino, non lasciasse che una materia inerte soggetta agli impulsi della vegetazione. Le mani erano fredde, non poteva più bere. La balia, una nuova che il portinaio era andato a prendere a caso in un'agenzia, ripeteva: «Mi sembra giù, molto giù». Rosanette restò in piedi tutta la notte. Al mattino andò a chiamare Federico. «Vieni a vedere, non si muove più». Infatti era morto. Lo tirò su, lo scuoteva, l'abbracciava chiamandolo coi nomi più dolci, coprendolo di baci e di singhiozzi. Girava stranita su se stessa, si strappava i capelli, gridava. Poi si lasciò cadere sul divano e restava là, bocca spalancata, gli occhi fissi dai quali scorreva un fiotto di lacrime. A un tratto fu presa da torpore e tutto nell'appartamento si fece tranquillo. I mobili erano spostati, due o tre salviette erano rimaste per terra. Suonarono le 6, il lume da notte si spense. Federico, guardandosi intorno, credeva quasi di sognare. Aveva il cuore stretto dall'angoscia. Gli sembrava che quella morte non fosse che un principio, che dietro fosse in agguato qualche sventura più grande, pronta a rovinargli addosso. Improvvisamente, con una voce tenera, Rosanette disse: «Lo conserveremo, non è vero?» Voleva farlo imbalsamare. Ma c'erano molte ragioni a sconsigliarlo. La più valida, secondo Federico, era che il trattamento non è attuabile su bambini così piccoli. Molto meglio un ritratto. Rosanette si convinse di quest'idea. Fu scritta una riga a Pellerin e Delfina corse a portargliela. Il pittore arrivò con sollecitudine, volendo rimediare con questo zelo alla sua condotta di un tempo. All'inizio diceva: «Povero angioletto, che disgrazia, Dio mio, che disgrazia!» Ma poco a poco l'artista tornò a prevalere e dichiarò che c'era poco da fare con quegli occhi bistrati e quella bocca livida. Era una vera natura morta e ci voleva un talento straordinario, e mormorava: «Ah, per niente facile, per niente facile». «L'importante è che gli assomigli», obiettò Rosanette. Della somiglianza mi importa molto poco, anzi niente. Al diavolo il realismo, è lo spirito che bisogna dipingere. Aspettate, voglio cercare di figurarmi come dovrebbe essere». Rifletteva, la mano sinistra contro la fronte, la destra sotto il gomito. Poi di colpo: «Ma che idea, certo, un pastello con dei mezzi toni colorati, rinunciando quasi completamente al rilievo, e si può tenere un modellato efficace, tutto di contorni». «In effetti è difficile trovare qualcosa di più incantevole di questi cari mostriciattoli. Non credete anche voi che il tipo del sublime, Raffaello l'ha provato con le sue madonne, sia proprio una madre col bambino?» Rosanette, che si sentiva soffocare, uscì dalla stanza. Pellerin cambiò prontamente argomento. «E allora quel bravo Arnoux lo sa cosa gli sta capitando?» «No, che cosa?» «D'altra parte era così che doveva finire. Ma in che modo, dunque?» «Ormai, probabilmente...» «Mi scusi un attimo?» L'artista si era alzato per sollevare un poco la testa del piccolo cadavere. «Stava dicendo», insistette Federico. E Pellerin, strizzando l'occhio per prendere meglio le misure: «Dicevo che il nostro amico Arnoux ormai è probabilmente sotto chiave». Poi, con tono soddisfatto: «Guardi un po' qua, non le pare che...» «Sì, sì, molto bene, ma Arnoux...» Pellerin posò la matita. «Da quel che ho potuto capire è stato denunciato da un certo Mignot, un amico intimo di Régimbard. Bel tipo anche lui, eh? Che razza di idiota! Pensi che un giorno... Ma che, non si tratta di Régimbard! Infatti, insomma, Arnoux doveva trovare ieri sera 12.000 franchi, altrimenti era fregato. Forse si sta esagerando, disse Federico. No, no, assolutamente. La faccenda sembrava grave, molto grave. In quel momento ricomparve Rosanetta. Sotto le palpebre aveva dei segni rossi, ardenti come macchie di belletto. Si mise davanti al cartone e lo guardava. Pellerin fece segno che taceva a causa di lei, ma Federico, senza badarci, eppure non riesco a credere. Le ripeto, disse l'artista, che l'ho incontrato ieri sera alle 7 in Rue Jacob. S'era persino messo in tasca il passaporto per precauzione e parlava di imbarcarsi alle Havre, lui e tutta la baracca. Come? Anche la moglie? Certamente. Troppo buon padre di famiglia per vivere da solo. E lei crede proprio? Ma per Bacco, dove vuole che abbia trovato 12.000 franchi? Federico misurò 2 o 3 volte la stanza. Respirava a fatica, si mordeva le labbra. A un tratto afferrò il suo cappello. «Ma dove vai?» disse Rosanette. Senza rispondere, scomparve. Occorrevano 12.000 franchi o non avrebbe mai più rivisto Madame Arnaud. Fino a quel momento la speranza gli era sempre rimasta, invincibile. Non era lei, forse, la sostanza del suo cuore, il fondo stesso della sua vita? Per qualche minuto non riuscì a muoversi. Restava lì sul marciapiede, malfermo, roso dall'angoscia, ma anche felice di non essere più con quell'altra. Dove trovare il denaro? Federico sapeva per sua esperienza com'è difficile ottenerne subito a tutti i costi. Una sola persona poteva aiutarlo, la signora d'Ambreuse. Nel suo scrittoio teneva sempre parecchi biglietti di banca. Andò da lei e con fare ardito. «Avresti 12.000 franchi da prestarmi?» «Per che cosa?» Era il segreto di un altro, ma la signora insistette per conoscerlo. Federico non cedeva, si ostinarono tutti e due. Alla fine, lei dichiarò che non avrebbe dato niente prima di sapere a che scopo. Federico arrossì violentemente. Un suo compagno aveva commesso un furto. La somma doveva essere restituita oggi stesso. Come si chiama? Il suo nome? Andiamo, dimmi il suo nome. Di Sartier. Si gettò ai suoi ginocchi, supplicandola di non parlarne a nessuno. Per chi mi prendi? Si direbbe che il colpevole sei tu. Smettila con quell'aria tragica, su. Ecco, tieni, e buon pro gli faccia. Si precipitò da Arnoux. Non era in negozio, ma aveva due domicili. Abitava sempre in Rue Paradis. In Rue Paradis il portinaio gli disse che il signor Arnoux si era assentato il giorno prima. Quanto alla signora, non ne sapeva niente. Federico, salite le scale come una freccia, incollò l'orecchio alla serratura. Finalmente gli aprirono. La signora era partita col signore. La donna non sapeva quando sarebbero tornati. Anche lei stava per andarsene. Lo stipendio gliel'avevano pagato. Tutto a un tratto si sentì scricchiolare una porta. «Ma c'è qualcuno in casa?» «Oh, no, no, signore, è il vento!» Federico allora aveva desistito. Eppure quella scomparsa così improvvisa aveva qualcosa di inesplicabile. Regimbard, amico intimo di Mignot, poteva forse fornirgli qualche chiarimento. Federico si fece portare da lui a Montmartre, in Rue de l'Empereur. La sua accoglienza fu meno brusca del solito. Gli raccontò di Arnoux. L'ex fabbricante di maioliche aveva raggirato Mignot, un patriota che possedeva 100 azioni del siècle, dimostrandogli che per il bene della democrazia bisognava cambiare l'amministrazione e la redazione del giornale, e con la scusa di far trionfare il suo programma alla prossima assemblea degli azionisti, gli aveva chiesto 50 azioni, dicendo che le avrebbe affidate ad amici sicuri, pronti ad appoggiare il suo voto. Le azioni erano state consegnate, ma Arnoux s'era affrettato a venderle e col denaro ricavato s'era fatto socio di un mercante di articoli religiosi. Da qui proteste di Mignot, temporeggiamenti di Arnoux. Alla fine il patriota aveva minacciato una denuncia per truffa se l'altro non gli restituiva i suoi titoli o la somma equivalente, 50.000 franchi. Federico ebbe un'espressione disperata. «Non è finita», disse il cittadino. Mignot, che è una brava persona, si sarebbe accontentato di un quarto. Nuove promesse di Arnoux, nuove balle, naturalmente. Per farla breve, l'altro ieri mattina gli hanno intimato di restituirgli entro 24 ore, senza pregiudizio del residuo, 12.000 franchi. «Ma io li ho!» disse Federico. Il cittadino si voltò lentamente a guardarlo. «Storie!» «Chiedo scusa, li ho qui in tasca. Andavo a portarglieli!» «Come corre lei, per la miseria!» «Non c'è più tempo. La denuncia è stata presentata e Arnoux è partito.» «Solo?» «No, con sua moglie. Li hanno visti alla stazione di Le Havre.» Federico si fece spaventosamente pallido. La signora Regimbard credette che stesse per svenire. Riuscì a controllarsi e trovò persino la forza di fare altre 2 o 3 domande sulla vicenda. Regimbard ne era rattristato. Episodi del genere, in fondo, nuocevano alla democrazia. Arnoux era stato sempre un uomo disordinato, incontinente, una vera testa matta, uno che bruciava la candela da tutte e 2 le parti. Sono state le sottane a rovinarlo. Quanto a me, non è per lui che mi dispiace, ma per quella poverina di sua moglie. Il cittadino, in effetti, ammirava le donne virtuose e teneva in gran conto Madame Arnoux. Ha dovuto soffrir ben bene, già. Federico gli fu grato di quella simpatia e gli strinse la mano come se ne avesse ricevuto qualche favore. «Hai fatto tutto il necessario?» gli chiese Rosanette vedendolo rientrare. «Non ne aveva avuto il coraggio», rispose. «Aveva girato nelle strade a casaccio per stordirsi.» Alle 8 andarono in sala da pranzo, ma rimasero in silenzio uno davanti all'altra. Ogni tanto uscivano in un lungo sospiro e mandavano indietro le portate. Federico beve dell'acquavite. Si sentiva tutto in rovina, schiacciato, annichilito, senza più coscienza d'altro che di un'enorme stanchezza. Rosanette andò a prendere il ritratto. Macchie di rosso, di giallo, di verde e di violetto vi cozzavano con violenza. Era una cosa orribile, quasi derisoria. Per una violenta reazione contro l'ambiente artificioso nel quale aveva tanto sofferto, Federico sentì il bisogno della fragranza dell'erba, delle tranquille abitudini di provincia, di una vita che scorresse via sonnolenta all'ombra del tetto natio, in mezzo a semplici cuori. Il mercoledì sera, finalmente, uscì di casa. Numerosi gruppi di persone sostavano sul boulevard. Ogni tanto una pattuglia veniva a scioglierli, ma non tardavano a riformarsi. Si parlava liberamente, a voce alta, con ingiurie e sberleffi, all'indirizzo dei militari, ma niente di più. «Ma come? Non ci si batte?» domandò Federico a un operaio. L'uomo in camiciotto rispose: «Non siamo mica così fessi da farci ammazzare per i borghesi, si arrangino!» Un signore, guardando di traverso quell'abitante dei sobborghi, mormorò fra i denti: «Canaglie di socialisti! Almeno si potesse farli fuori tutti questa volta!» Quello stolto rancore riusciva incomprensibile a Federico. Se ne accrebbe il suo disgusto di Parigi e dopo due giorni, col primo treno, partiva per Nogent. Presto le case scomparvero, la campagna si fece più ampia. Solo nel suo scompartimento, i piedi allungati sul sedile, Federico ruminava gli ultimi avvenimenti, l'intero suo passato, e il ricordo di Luisa s'affacciò alla sua mente. «Lei sì che mi amava. Poteva essere la felicità. Ho sbagliato a non afferrarla. Ma non pensiamoci più.» Poi, cinque minuti dopo, chi può dire, in fondo? Magari più tardi, perché no? I suoi occhi, i suoi sogni, affondavano insieme verso confusi orizzonti. Era ingenua, una ragazzina di campagna, una selvaggia qualsiasi, ma era tanto buona. Man mano che si avvicinava a Nogent, anche Luisa gli si faceva vicina. Mentre il treno attraversava la piana di Sourdan, la rivide che tagliava giunchi lungo le rive, all'ombra immutata dei pioppi. Era arrivato, discese. Si fermò un attimo sul ponte, i gomiti sul parapetto, per rivedere il giardino dove erano stati fianco a fianco in un giorno di sole. Lo stordimento del viaggio e dell'aria aperta, la debolezza per le recenti emozioni, gli davano una specie di ebbrezza. Forse è fuori di casa. E se andassi a cercarla? Dal campanile di San Lorenzo venivano dei rintocchi e sulla piazza davanti alla chiesa i poveri s'accalcavano intorno a un calesse, l'unico che c'era nel paese e veniva usato per i matrimoni. All'improvviso, come trasportati da un fiotto di borghesi in cravatta bianca, due sposi apparvero sotto il portale. Federico credette a un'allucinazione, ma no, era proprio lei. Luisa. Un velo bianco le ricadeva dai capelli rossi fino alle caviglie, ed era proprio lui, Delorier, a indossare quella giacca blu profilata d'argento, quell'uniforme da prefetto. Ma che cos'era? Cosa voleva dire? Federico si nascose dietro l'angolo di una casa per lasciar passare il corteo. Vinto, schiacciato, pieno di vergogna, tornò in stazione e riprese il treno per Parigi. Il conducente del fiacre gli assicurò che c'erano barricate dal Château d'Eau fino a Gymnase e prese per Faubourg Saint-Martin. Federico smontò all'angolo di Rue de Provence per raggiungere a piedi i boulevard. Erano le 5, veniva giù una pioggia sottile. I marciapiedi dalla parte dell'Opera erano pieni di borghesi. Le case di fronte avevano i portoni serrati, le finestre erano deserte. Per tutta la larghezza del boulevard, i dragoni, chini sulle incollature delle bestie, galoppavano a briglia sciolta e sciabola sguainata. Le criniere degli elmi, i grandi mantelli bianchi sollevati dalla corsa, turbinavano contro le fiamme dei lampioni che oscillavano al vento nella bruma. La folla osservava, atterrita, silenziosa. Fra una carica e l'altra della cavalleria, le guardie municipali intervenivano per incanalare la gente lungo le traverse. Ma sulla scalinata a Tortoni, un uomo, ben visibile da lontano per la sua alta statura, era rimasto fermo come una cariatide. Dussardier. La gente, che veniva per primo e aveva gli occhi nascosti dal cappello a tricorno, lo minacciò con la spada. L'altro allora fece un passo avanti e si mise a gridare «Viva la Repubblica!». Ricadde sulla schiena, le braccia in croce. Dalla folla si alzò un urlo d'orrore. La gente si fece un vuoto intorno con lo sguardo e Federico, la bocca spalancata come per gridare, riconobbe Senecal. Anna Buonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it